giorno al giorno, coi piedi al caldo, a risvegliarsi lentamente camminando, sotto una doccia che mi versa addosso, tutto il rumore di un mattino troppo grosso. Buongiorno a un cane, anche buongiorno a chi lo porta, guinzaglio lungo e una paletta troppo corta, tre file immobili di macchine per strada, chi si urla vattene, chi dove vuoi che vada. Speriamo sia un buongiorno e che ti giri tutto intorno, se giri intorno a te riflesso, secondo me non è lo stesso, ma è sempre un buongiorno, l'andata di un ritorno, somiglia al tuo buongiorno, se sei fra quelli che perciò saranno isobare ma ci alzan la pressione. Buongiorno a tutte voi dietro le vetrine, di messaggini e mail di stanze più vicine. Buongiorno, come sta? M'ha detto sulla porta, che è come dire la risposta non importa, ma è sempre un buongiorno. Saluti tutti e dietro l'angolo buongiorno, sei in corridoio e ti interrompono buongiorno, è quasi luna e arriva un altro buongiorno, e a questo punto è certamente un buongiorno, certificato da chiunque tutto il giorno, e se domani avrò più sonno, lo stesso un giorno sarà buono buongiorno. Tornando a casa il giorno va all'indietro, pensieri nuovi e vecchi sopra il vetro, che scorre l'acqua e scorre di sole rosso, mentre progetto su stasera cosa posso. Che giorno vero vero acqua passata sul vetro, come quel sole che l'ha riscaldata. Domani sarò nuovo e riposato, e il tuo saluto quale mi farà svegliato. Speriamo sia un buongiorno e che ti giri tutto intorno, se giri intorno a te